Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera, questa sera parliamo di un libro di storia economica, una sfida al capitalismo italiano, Giuseppe Luraghi. Ne parliamo con Daniele Pozzi, l'autore. Buonasera, professor Pozzi. Buonasera. Daniele Pozzi insegna storia economica presso la LIUC, l'Università Cattaneo di Castellanza, collabora con il Dipartimento di Analisi Politiche dell'Università Bocconi e ha realizzato questo saggio storico sulla figura di Giuseppe Luraghi, soprattutto grazie alla consultazione dell'archivio messo insieme, custodito, riordinato dalla figlia di Giuseppe Luraghi e da Pablo Rossi, appunto il marito della figlia di Luraghi. E questo libro appunto racconta la storia di Luraghi, che è stato nella sua carriera soprattutto presidente dell'Alfa Romeo fino a quando non fu costretto a lasciare questa carica. Ma andiamo un po' con ordine. Allora, Daniele Pozzi, una sfida al capitalismo italiano. In sintesi, perché questo titolo per Giuseppe Luraghi? Beh, questo titolo non vuole alludere sicuramente a un'idea di Luraghi come un rivoluzionario, almeno non nel senso classico, ma piuttosto a una sua idea che in un certo senso pro-rivoluzionaria era, cioè quella di un capitalismo che non si inquadrasse nei due modelli dominanti del capitalismo italiano dell'epoca e parzialmente anche di oggi, cioè il modello basato sulla proprietà personale, sul controllo personale e sulla proprietà familiare, invece il modello basato sulla proprietà pubblica e quindi sull'impresa di Stato. Ecco, però Luraghi pensava, che operava in questo senso, che l'impresa pur di proprietà pubblica doveva avere le logiche e le strategie di un'impresa privata. Sì, perché la sua idea non era tanto quella di negare la legittimità di una proprietà pubblica e di un intervento pubblico sul mondo dell'impresa, quanto piuttosto l'idea era quella che l'impresa pubblica, così come anche quella privata, doveva essere gestita dai competenti, cioè dai manager. La sua idea era quella quindi di una società in cui la distinzione tra il tipo di proprietà fosse relativamente poco importante, l'elemento invece che contava era il fatto che le imprese fossero gestite dagli uomini migliori e che questi venissero selezionati secondo un criterio strettamente meritocratico e di competenza. Ecco, quindi anche su questo fronte poi piano piano sono emersi i contrasti con la politica, che voleva, diciamo così, piazzare i suoi uomini nei posti che erano più di controllo, anche per controllare meglio quello che era il sistema delle partecipazioni statali. Sì, sicuramente, perché quando Luraghi lascia la Pirelli per contrasti con la famiglia Pirelli nel 1950 e inizia a lavorare nel sistema delle partecipazioni statali, l'immagine e anche la realtà dell'impresa pubblica di allora è quella di un tipo di impresa dove la proprietà è fondamentalmente assente. La classe politica fino alla metà degli anni 50 non aveva ben compreso quali erano le potenzialità dell'impresa pubblica, che quindi continuava ad essere amministrata in maniera sostanzialmente tecnocratica da quelli che erano i dirigenti che c'erano già negli anni 30 o dai loro immediati eredi. Quindi Luraghi all'inizio si trova a lavorare in un'impresa statale che rispecchia molto quella che è la sua immagine, la sua idea. Dalla metà degli anni 50, soprattutto con la creazione del Ministero delle Partecipazioni Statali, questa situazione cambia. A questo punto la classe politica cerca effettivamente di mettere sotto controllo il sistema dell'impresa pubblica e di farne uno strumento per indirizzare risorse verso, nel migliore dei casi, fini di sviluppo, e nel peggiore fini biecamente clientelari, direi. Ecco, non solo la politica, perché emerge anche nel suo racconto il fatto che i contrasti di Luraghi e le difficoltà che incontrò soprattutto nello sviluppo del progetto di Pomigliano d'Arco, dell'Alfa Sud, che è stato in fondo l'ultimo grande progetto portato avanti da Luraghi nell'Alfa Romeo, derivarono dalla politica, che aveva grandi ingerenze, ma anche da una conflittualità sindacale crescente. Di fatto Luraghi si trova come schiacciato tra due forze: da una parte ha la proprietà dell'impresa, che in questo caso è politica, che cerca di distorcere la destinazione delle risorse verso determinati fini che spesso sono in contrasto con le strategie aziendali; dall'altra però si trova anche contestato da sinistra, da questo movimento fortemente rivendicativo e con obiettivi anche talvolta poco chiari, specialmente per quanto riguarda lo stabilimento meridionale, e in qualche modo si trova quindi tra l'incudine e il martello. Si trova in una situazione, ad esempio, a Pomigliano, dove per far fronte a un assenteismo elevatissimo la classe politica gli impone o cerca di imporgli l'aumento dell'occupazione compensando l'assenteismo con degli aumenti occupazionali molto forti, e soprattutto l'impresa e la dirigenza si trova totalmente isolata durante gli anni in cui cominciano a manifestarsi le prime forme di terrorismo, che sostanzialmente non vengono capite da Roma. Nessuno capisce veramente la gravità della situazione che l'impresa sta fronteggiando nei suoi stabilimenti. Ecco, dopo aver lasciato l'Alfa Romeo, proprio per questi contrasti, per queste difficoltà, Luraghi diventa anche, al termine della propria carriera, presidente della Mondadori, anche perché era stato, e forse va ricordato, anche come romanziere, come scrittore. Sì, Luraghi in qualche modo corona quello che era stato un suo sogno. Già durante gli anni della Pirelli era stato promotore di una piccola però molto qualificata iniziativa editoriale, la casa editrice della Meridiana. Negli anni Ottanta arriva addirittura alla presidenza della Mondadori, per la quale è stato autore di alcuni romanzi di tema milanese, che sono il ciclo dei romanzi di Peppe Girella, dei romanzi molto divertenti scritti con una pastiche di italiano e milanese, e quindi in qualche modo negli ultimi anni della sua vita Luraghi unisce queste sue due qualifiche, quella della dirigente di alto livello e quella dell'uomo di lettere. Ecco, il libro si conclude appunto parlando del caso Luraghi, possiamo dirla, con un'affermazione: nell'Italia cresciuta nei vent'anni successivi alla morte di Luraghi, la reale possibilità di un'ascesa sociale e professionale basata su competenza e merito individuali, cioè la possibilità di diventare capi, rimane un interrogativo. Ecco, mi sembra un interrogativo, forse una figura retorica. Rimane il fatto di un'Italia che ha ancora tutti i problemi non risolti di rapporto tra aziende pubbliche e aziende private, soprattutto tra presenza pubblica nell'economia, professor Pozzi. Ma più che altro rimane una situazione in cui non sono state ancora stabilite delle regole chiare. Le regole del gioco non sono ancora intellegibili, o almeno forse non si possono dichiarare apertamente. Luraghi nel 73 aveva scritto questa sua autobiografia professionale, che si chiamava appunto Capi si diventa, e esprimeva un'idea molto positiva, nonostante fossero gli anni in cui stava battagliando duramente contro la classe politica per rimanere a capo dell'Alfa Romeo. L'idea di Luraghi era che se non intervengono delle distorsioni derivanti dalla politica o da privilegi di casta derivanti da legami familiari, in pratica a chiunque è aperta la possibilità di diventare un capo, quindi diventare manager e di arrivare ai massimi livelli dell'economia, ma anche della classe dirigente tout court. Quali siano queste regole a 20 anni dalla sua morte forse rimangono ancora abbastanza opache, quindi capire se si possa essere o no capi è ancora qualcosa che non è ancora ben definito. Possiamo dire che il grande principio liberale dell'uguaglianza dei punti di partenza, ma poi della possibilità a ciascuno di esprimere anche la propria diversità, non trova forse in una società vischiosa come quella italiana delle concrete possibilità di essere realizzato. Io ringrazio Daniele Pozzi, professore di storia economica presso l'Università Cattaneo di Castellanza, e ci ha parlato di questo libro che ha curato, Una sfida al capitalismo italiano, Giuseppe Luraghi, la storia appunto dell'imprenditore nelle vicende del primo dopoguerra, dalla direzione della Pirelli a quella della Finmeccanica fino alla presidenza dell'Alfa Romeo negli anni 60-70. Una sfida al capitalismo italiano, Giuseppe Luraghi, edito da Marsilio, sono 315 pagine per 30 euro. E dopo aver parlato di un grande manager come Giuseppe Luraghi, un manager del passato, della storia economica, parliamo dei manager del futuro e dei manager dei nostri giorni. Ai manager del futuro è dedicato il libro di Paola Caravà, Leadership nello zaino, temi svolti e da svolgere per i giovani tra studio e lavoro in azienda. Un libro che è soprattutto una serie di schede sui temi principali che devono animare, che devono ispirare i giovani quando pensano non solo alle prospettive economiche, ma soprattutto a quello che dovranno fare nel mondo del lavoro, e quindi tutte le caratteristiche che ha il mondo del lavoro e come di fronte a queste caratteristiche il giovane deve atteggiarsi. Quindi leadership nello zaino, quali sono gli strumenti utili, gli strumenti operativi, quali sono i pericoli che poi si devono affrontare, quali sono i rischi che si possono appunto incontrare di fronte all'inizio e allo sviluppo di una carriera all'interno delle imprese. Ecco, il pregio di questo libro è il fatto di essere estremamente pratico, non è un libro solo di teorie, non è solo un libro che guarda alle ispirazioni e ai sentimenti, ma è un libro che proprio dà quella che può essere la cassetta degli attrezzi per muoversi attraverso un sistema difficile e complesso come quello certamente competitivo che è all'interno delle aziende. Il libro è Ricordo di Paola Caravà, Leadership nello zaino, edito da Guerini e Associati, costa 19,50 euro ed ha circa 200 pagine. Ma poi un altro piccolo libro, soprattutto perché siamo in vista del Natale per i manager di adesso, è un'agenda, l'agenda Manager 2013, curata da Francesco Boiari, è un'agenda di carta, adesso si usano molto le agende elettroniche, ma questa piccola e tascabile agenda di carta ha anche il pregio non solo di essere un'agenda in cui si possono scrivere e annotare appuntamenti e avvenimenti, ma anche è una rassegna, diciamo, delle frasi, delle citazioni di tutti i premi Nobel per l'economia, e quindi è anche un piccolo manuale per muoversi all'interno della complessa realtà economica italiana. Questa agenda, ricordo, Manager 2013, edita da Metamorfosi Editore. Grazie di essere stati con noi, vi ricordo che questo programma va in onda tutti i sabati alle 21:15 e grazie a Luca Cremonese in redazione e a Carmelo Lauricello in regia.